fortissimo, tutti dentro gli armadi, con le scatole, con le cose. È una cosa allucinante. Ho più video, tu mi sparo che rimani lì in vita naturale durante, perché se devi tirare troppo la valigia, ci vuole un articolato, ci vuole a portare via tutta quella roba. Infatti, mio figlio ha detto, quando papà non ce la fa più, ti dà tutto quanto. E mi ha detto, sì, è così mi assomiglia a un tiro. Raga, mi dì. Niente, no, mi piace avere la roba quando mi serve, non a chiederla e neanche andare a comprarla, allora me la compro prima, capito? Ho molta roba doppia e tripla perché quando mi scelgo qualche lavoretto, anziché andare a casa a cercarla, niente, andavo lì e ce l'ho comprato, ci ho fatto così. Molto ottimo, piace. Papà, lui che ne hai in casa, non ne ho voglia. Pistole e silicone ne avrò 4-5. Ballerina non è tagliato, segreto operativo, moneta, di tutto. Poi giustamente se un amico e mi chiede un favore non c'è problema. Fai come se fosse casa tua, usa quello che vuoi, qua c'è la roba, no, lanciati. Poi c'è quella circolare dal banco, che quella mi interessa molto, ho dovuto tagliare i pezzi. Stavo pensando se mi lo fa fare Vittorio, me l'ho fatto un piccolo orticello, smonto tutto, non c'è più niente. E costruire una casetta, un 3 metri per 2 circa, sì, anche 1,50 va bene, alta 1,80, se me lo fa metto tutta l'attrezzatura dentro. Bellissima Antonio, bellissima, con col petto fiorente, non quadrato, molto bella, porticina, e ti sistemi tutto lì dentro, il petto pure, metti il cartone cattramato, ben messo, sì sì, è bellissima, bella, bella il legno, anche perché c'era veranda il legno, quindi erano bracciatine nuove, no? E c'è un bel lavoro. No, l'unica cosa che ti manca è un altro isolante, quello non l'ho contato. Hai capito in giro, dai. Tanto, quando stavamo pensando l'antenna, ho detto, Tony, non contiamo le fascette, Antonio, fascette quante ne vuoi? 10 pacchi, 20 pacchi, gialle, bianche, verdi, nere, lunghe, corte, di tutto, una me ne giri di fascetta. Anche dammi anche una posolante, è un regalo minimo 20 rotte una posolante, giallo, nero, bianco, di ghido acu, teratto, di ghido nero, teratto, di ghido verde, teratto, cazzo, una goccia allucinante. La roba bevo, la roba bevo. E anche un maggio lungo, se no, uia, abbiamo cominciato a comparare. A me già mi piace pure queste cose qua, anche a me. Sono contento che a casa proprio vedi tutto, beh. Cioè, perché prima, quando lui stava un po' più bene, faceva un lavoro di tutto. Io vizi non ne ho, quindi Claudio l'ha visto, non fumo più da 5 anni, non bevo, sono astemio, niente, spese non ne ho molto, quindi tra pensione che prendo più stipendio lavoro, mi serve qualcosa, ma me la compro. Ho visto un bel televisore, 60 pollici, 299, mi sa che, non lo so, se domani vado me lo prendo. E questo che ho qua, da 50 lo do da 50. Ma mi si è bruciato quello, bruciato, non accende più, quello della qua della sala radio. Ma l'ha riparato Luca, durato un paio d'anni, adesso non accende più, infatti mi ha detto porta, ma sicuramente si è fatto nuovamente il condensatore dell'alimentazione. Non so se ripararlo perché è un ricordo dei miei soci, capito? Un Milva 32 pollici che ho messo qua a parete, visto per guardare le partite, per qualcosa. Ma anche mia figlia mi ha detto, papà, ma cosa stai a fare? Un televisore vecchio? Ah, funziona, c'ha l'eco incorporato, c'ha tutto. E ho avuti, ci sono 120 euro, 32 pollici, 30 pollici. Con l'attacchi nuovo di ultima generazione, anche smart TV, ma infatti mi sa il fatto così. Dico, se lo rampo, se la biglia il culo, non volevo mettere mansarda, ma andiamo a mettere sempre roba, tutto pieno di roba sui mansarda, accanto ai miei soci, mia moglie non vuole buttare niente, il divano era di mamma un ricordo, il rugantanano era di mamma un ricordo, tutto pieno di mobili. Quindi se bongo bonghisco che non attende, ma prendo ce l'ho, lo porto all'autoparco e me lo compro nuovo anch'io, Tony. allora me la volevo fare col berlinato da 3. È l'unica soluzione, che è molto grosso. Sì, poi 4 pilastri di mais da anche 10 per 10 va bene. E poi i trapi, giustamente, qualche trape. No, la cornice è carina, poi metto sì, vorrei mettere quel tetto in plastica tipo tegole finte. Oppure, cioè, dura di più. Mi metto anche la canaletta alluviale, lo dico tubo, mi scarico. No. Comunque, tornando, ci vogliono soldi, sì, perché sia con tutta la roba che ho comprato ci sono un bel po' di soldini. Però ripeto, sono soddisfatto perché se mi serve una cosa, là, già lo sei mai visto, il cancello mi è servito qualche cosa di, perché i cani uscivano, che ho trovato male, le tavole, tutto al cioccolato, trovo allora, due bici tagliati, mi presa, è messo. Poi, c'ho il cattuccio, poi, lo che taglia seto, tipo alternativo gigante, poi cose che l'ho presa. Ah, un trapano con lo 20 volts, la batteria, le lampade a batteria sempre di quella marca tedesca che usano anche i meccanici, con la calamita, tutta a LED, ma è una potenza. Poi non parliamo delle lampadine che ho a LED, anche da 200 watt è là. La luce che c'hai, tutta illuminazione, no, è bello, io te l'ho detto Tony, non è, te l'ho detto perché, ma è così, è una bella casetta quella, ordinata, sempre pulita, c'è il cancelletto per entrare, i cani dentro, c'è quel giardinetto, va bene, per te prima fitta che fai i buchi, come si dice in gergo, capito? È ben curata, ben tutto, va bene, quindi se fai poi quella casetta è fenomenale, perché gliela metti lì dove hai fatto quel pezzettino di orticello, è anche bella da vedere, è affiancata alla veranda, poi conoscendo ti fai anche una cosa bellina, col cancellettino, con la sua porta, va bene, va benissimo. Ok ragazzi, dai, io vado a cenare, ciao Antonio, ciao Tonino, un abbraccio a tutti e due, buon proseguo di serata, buon fine domenica, buon inizio per domani, noi già ci salutiamo domani mattina, come sempre, e se coincide, se Dio vuole, già ci sentiamo domani in radio, ok? Dai, aspetto il finale e poi chiudo, vai Antonio. E cappa, dai, salutone qua. Ce la risentiamo alle prossimine. Avanti Tony. Ciao Clara. Comunque, ho piacere di nuovo di prenderci un bel caffè, dai, se ce la facciamo, cavolo. Siamo da un bel po' che non ci vediamo. Ok, buon carico batteria, sotto nel Corea, ci risentiamo, dai. Stammi bene. Ciao Claudio. Ciao Tony, ciao Antonio. Sì, un caffettino ce lo possiamo prendere, non è quello il problema, Tony, però con questo cazzo di Covid non possiamo fare niente, lo sai, perché non si può fare. Comunque, aspettiamo, dai, già ci vediamo, ci prendiamo un caffè, non è un problema. Provo per chiamarti stamattina, perché ho detto alle segni lì, a prendere un caffè, a rasura, ho detto, ma boh, sono impegnato, c'è la domenica e non ti ho chiamato. Ma già mi faccio sentire, dai. Ok, ciao Tony, un abbraccio, ciao Antonio, a presto. Ok, claro. E stamattina è stato al cimitero della mamma, era che chiuso il cimitero. C'era solo l'ingresso aperto e basta, giù, niente. Allerta meteo, e vabbè. Niente, come se la sera fosse un po' di spesa, poi ero tutto il giorno libero. E vabbè, non c'è neanche, non mi sto riferimento di... Pensavo che è di molto indaffarato, no, a chiamarti. Ho visto Emanuele, non mi sta più chiamando. E poi il telefono ce l'ha. Non lo so, lo chiamerò perché intanto... Mi sa che domani lo fisco col mobile suo, così glielo do, e non serve parla più. Di nuovo, ciao, buon carica, ci sentiamo qua. Avanti a tutti. Sì, a capo, dai, ci sentiamo qua. Buon tutto. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, anche tu. Ciao. E quindi, Antonio, allora, tu sei per il bombolette? Sempre in giro, ha vado a Mazzano, torna la carica. Vabbè, questo mese l'ho fatto pieno io, manco un giorno sono mancato, eh. E vabbè, soldi in più per Natale, per le fatiche. Andava bene. Ferie è un fa dura, però ce le fanno fare per forza. Io devo chiudere l'anno con 5 giorni di fede, tutto il resto me lo devo fare per forza. E quando le fai, poi mi tocca anche il giro apposta. Devo andare a palazzo, prendere la posta, portare la bandica, sono un giro un po' vizioso. Ci perdo massimo un'ora e 10 minuti e mi segno la giornata intera. A me mi va troppo bene. Tant'è vero che dico sempre no, mettimi in ferie. Perché bisogna anche capire che se lo mette in busta paga mi dà una cazzata, perché straordinari sono pagati poco. Mentre invece me ne mette in ferie, mi piano giornata e sono pagato pieno, intero, capito? Capo, a sette ne mancano i doni. Alla pensione? Ma guardi, la domanda l'ho fatta il 30 settembre, però il casino che ho scoperto a poco è il patronato ha sbagliato tutto. Anziché farmi la domanda per la pensione, ha fatto la domanda dei contributi che ho io, che poi imbecille la potevo trovare lei stesso. Quindi, non lo so, come arriva e cosa è contributi, qualche giorno vado io, sono in ferie, mi faccio avere il punto intabulato e poi faccio la domanda in ferie. Perché tra l'altro usufruisco di 8 mesi di scivolo per la pensione, per l'invalidità che ho io. Ho già 66 anni fatti, 30 anni di contributi e adesso col sacco, non ci vogliamo. Niente guarda. Invece di fare una cosa ne fatto un'altra cosa. Ma adesso tu sei già in età. Dopo io chiamavo l'Ips e mi piazzavo con loro, poi alla fine dice, non è qua la domanda, non c'è della pensione. Ma c'è una domanda per i contributi, eccetera, ma per i piedi della luce. Vabbè, pazienza. E comunque guarda, ma ripeto, stanco di essere qua raccomandato, andare a fare, stanco di fare chilometri, stanco un po' di tutto, mi sono rotto le palle, dico basta, quando vado in pensione mi dico tutto a me stesso, mi faccio quello che devo fare, attrezzatura, ciò che mi manca, niente, se mi voglio sedere mi siedo, non mi comanda nessuno, capito? Ormai sono arrivato già un'età che ho detto basta. Un piccolo e ha detto un giro già me l'avrei fatto, ma senza neanche impegnarmi, cioè senza neanche uccidere chi c'è in un dì, ma avrei fatto un bel po' di giri tranquillo, o anche una settimana, che ne so, in qualche posto di mare, cioè proprio a rilassarti e non sentire nessuno, proprio a stare tranquillo. No, guarda, io quando proprio voglio stare tranquillo, quando so che i miei figli stanno bene, la mia ex sta bene, tutti stiamo bene, quindi Natale ce lo facciamo insieme, anche se io mi muovo da qua, vengono qua, rimangono qui, capito? Devo andare fuori, no. Guarda, dove abito io c'è un paradiso, c'è un silenzio, sta bene, tranquilli, non ho problemi a andare fuori, assolutamente. Sto bene così. E poi cosa vai a fare fuori? Ma a rilassarmi, mi rilasso già gli occhi. Molte volte non esco la sera perché dico cosa c'è a fare, ma sto arrancando con la macchina, se mi mantiene fino ad andare in pensione che poi me la compro nuova. Quindi è già vecchietta, 809.000 km e va ancora, però ogni tanto il suo singhiozzo già lo va. E vabbè, ha fatto la sua epoca, è vecchietta pure lì un po', come ti vicino a noi invece nel Buruetto, così è. Comunque, no, io invece mi rilasso molto adesso perché sono sempre in movimento, c'è pandemia di questi cazzo di bombole, mamma mia. Quando arriva l'estate, o che me ne vado al mare o che me ne vado in piscina, per me quello è un rilassamento. Non sento nessuno, sento silenzio e va benissimo. Capo, no, io sono il mare, non le balle piene. Per un po' di anni sono andato in montagna, Livigno, poi Bolzano, dove sono andato poi? Canazì, che bellissimo Canazì, guarda, ci riandrei di nuovo. Val di Fassa, Moena, Capitello, Marmorada, sono posti bellissimi. Puoi stare su a quota 3200 metri, ci sono rifugi, mangi lì, ti rilassi, guarda che è una cosa incredibile, che fa una settimana lì va bene. Lo ripeto, soltanto ci si può andare d'inverno e basta. Io andavo a fine gennaio, inizio febbraio. Sì, vabbè, adesso l'inverno ci può andare in questi posti qua. Posti dove c'è silenzio, dove non senti tutto questo casino, fracasso della città. I posti tranquilli, vedi. A me mi rilascia molto. Ma ho tutta altra intenzione, quello che, ripeto, ho in mente di fare. Niente, ho tutta la sera libera, tu pensa dove è 14:10 che timbro, tutta la sera libera, d'estate poi giornate sono più lunghe, più belle, le puoi fare di cose a voglia. Però solo questo piccolo problema, questo periodo, l'erine del disco che mi rompe le palle, che vuoi fare tante cose ma non le puoi fare perché quando sei molto in piedi camminando ti fa male, anzi devi sedere un pochettino. Lo so, è brutta, purtroppo. Tutte cose che non si vogliono avere, sembra giù che tu duro raro bianco, che ti dici. Ma è non ammara bombole, ogni tanto mi appare, mi scompare, Beh. Io ho preso appuntamento con un dottore di Brianza, Milano, Bergamo, quella zona lì. E ho l'appuntamento il giorno 14 dicembre al Ghero. Mi fa la visita e poi mi fa il tuo per andare a operarmi. Quindi sono alla visita a 150 euro. Gli ho detto mi fiducio, ma non era. 150 euro. Ma non è, così è. Io per la salute guarda, non guardo niente, non mi dà più da me quasi mai e non posso continuare così. E voi che quando vado in pensione voglio sì tranquillo, camminare e posso camminare, fare tutta la multimusa a piedi, non mi dà più nulla. Se ti vuoi curare così, se no ti rimane. Ciao, ora è ancora peggio. Adesso è ancora peggio. C'è questo coronavirus, comunque sta cambiando tutto, dai, me lo. Aspetta a vedere cosa c'hanno i cani. Eccomi qua. Sì, cosa va via Rugano? Più niente, tra niente, rompe delle palle, si sono si vicini che ho preso, ma è cortica, c'è la festa mezza aperta, c'è la chiusa però. Ah, così è. A me parlavi di Tallucci, nessuno me ne voleva fare, cioè ma roba da macchie. Cioè io ho bisogno di farmi, per fortuna ci sono questi ottici che la fanno loro e tutto, e sono andato lì, via Carlo Alberto, e mi hanno fatto tutto, se no non sapevo come cavolo fare, me l'ho fatta gratis. Facevo gli occhiali e me l'ho fatto gratis. Però non sapevo come fare. Purtroppo io penso che la visita cardiologica sono andato a Nuoro a farla perché sa sono in vazia, c'è disponibile Cagliari a Nuoro, trova da Nuoro perché vicino a Nuoro ci abita mio figlio, quindi a posarla è un casino, sa se non fa più niente, non gliela putti nulla. Mamma mia, guarda. Ma no, non si può, dai, ma cazzo mio non sono in mezzo alle bestie. Allora sono arrivati tutti i reparti Covid e gli altri se ne hanno in ora amara. Cioè, hanno bisogno di farsi una cura. Ma come si fa? Ma dai, fai una cosa, prenditi un reparto, va a San Camillo, ricursione. Ti pigli un reparto te lo fai tutta Covid, non è che tu trasformi i reparti e gli altri cosa fanno? Se ne hanno in ora amara. Cioè, se non ha bisogno di una visita urgente cosa fanno? Purtroppo è un leucemia. Oh, Tarangi, purtroppo, tu pensa che in America addirittura non c'hanno la sanità, ce l'abbiamo noi. sera di Dio, ma dai, ma non siamo in mezzo alle bestie, con tutte le tasse che paghiamo, cioè, a trattare così la gente, no? Gente, cioè, persone con malattie anche importanti, cioè, ma ci rendiamo conto di cosa siamo, certo, no? Veramente, io dico, non capisco, non capisco veramente. Purtroppo ha tutto ciò che fare. E così, uno per curarsi, mi vuole dire, anche così, hanno conosciuto i soldi e quindi, già come politici, io la chiamo solare la mafia bianca. E purtroppo, se tu vedi davanti è così, ma io per la salute non guardo niente, non me ne affronti nulla, non mi sto buttando i soldi, ma li sto pagando per stare bene io, quello mi interessa, perché io ho il disco due piccolo a grande, neanche lavorando non so quanto strigo i denti, vado avanti, per carità, però arrivo a un certo punto e sono bimboso, a chi so che ho trovato un sacco e tu mi mangi male, non ce la faccio. Non mi dice nessuno perché non mi comanda nessuno, sono ancora specializzato, quindi non è sul superiore con me, quindi tutto io decido di fare quello che devo fare, l'importante è che lavoro lo faccio. Chiappa, ma sto scherzando, no? Logicamente che sì, però dico porca miseria, cazzo, non... non hanno nessun ritegno, cioè avasso fissati curigruviti e buh, cioè è per forza uno si dice cosa ha fatto, ci si deve curare, devi quindi le mai portate di là. C'è un mio amico che c'ha, ha avuto un problema a un piede, cioè non avrà fatto a camminare, cioè è dovuto rivolgersi a uno privato perché se no non trovava posto, cioè ma ci rendiamo conto, cazzo, ma cosa cazzo, ma io dico, ma questa gente, dice, questi non hanno cervello, lì si vanno i brodi in capo, da voi dice chi sa i secondi studi, ma vai, se te lo devi fare, o fai una cosa fai l'altra, cazzo, doppio lavoro, cazzo, dici, chi ci sono, animali. Beh, purtroppo non ci vuoi fare. Ma su Facebook ho visto questo che parlava e diceva, con questo vaccino la prima che se lo devono fare sono i politici. Se vivono, andiamo avanti. Se invece muoiono loro, l'Italia si salva. È vero. Tanto vaccino che te ribongano, deve andare tutti i salienti. E i gentiloni della Remusso, la comunità europea, capito, a Bruxelles, che i vaccini per gennaio ci sono per tutti, e si negozia e donata la ringa, è tutto l'unico del governo. Carità. Ui, ui, ui. Oh, però è incredibile qua. Ma poi, addirittura questo vaccino ci vuole 70 gradi sotto lo zero, fatti dirgli, ma che cosa che non posso mantenere la guarda. Poi hanno detto che ci voleva 2 anni, avrai pochi mesi, lo hai fatto. E allora io da cambia non ci devo fare, né io né nessuno. Molti la faccio pazza e cercano che non se ne fanno, e fanno bene. Se imporre solo una cosa, non fare vaccino tu per andare a lavorare, dico ma buon mese così hai pensione, io ci viene a culo. Cadete in culo il vaccino. E allora, il 94% è positivo, è buono, cioè, quindi, ma è il 6%, e se voi capite già me, non mi scendo più, no, la capite. Non le faccio la caga io, lo sento io, guarda, allora, sono cardiopatico, automaticamente sono fragile. Avrei preso il coronavirus se c'è veramente 10.000 volte, non l'ho mai preso. Chissà cosa c'è sotto. E allora, per me ho voluto avvicinare la popolazione che siamo troppi, cosa ne so. Anche io tutti i clienti che muori di coronavirus mi pare strano. Chi si muore di collasso, coronavirus, muore di incidente, coronavirus, ma si la meglio di oggi. Un anziano che arriva a oltre 90 anni, non ce la fa più, muore di coronavirus. Bah. Niente, morendo in fabbrica, di 50-60 euro che tu fai avere un tampone, ma che te la pigli in culo, due tampone che con quei soldi io ci devo mangiare a casa. Cioè, purtroppo non li posso proprio spendere perché ci devo mangiare. E se no sono cazzi amari, no? Che la gente... Aspettami il telefono. Siete al suo posto. Ciao. Via. Eccomi. Via, eccomi. A me mi chiamo sempre la donna a quest'ora. Buonanotte, un bito in dascio, ma... Tutto pieno di femmine, sì, tu. Questo è un fusile rocciante. Le donne già non mi mancano. Ma a vero, ma no, con qualche persona che dice, dovete fare a un'amica, ma tutte malle, grazie. Io posso dare dimostrazioni quando voglio. Beh, certo, ma è normale. Se sei, cioè, diciamo, cioè, se sei solo, no. Poi le persone bisogna stare sempre bene, se tratti bene le donne ti cercano. Stai scherzando? È normale. Certo. Però non c'ho problemi. Aspetta che ti mando adesso le cose della buonanotte. E siamo a posto. Ecco qua. Mandato. Adesso scriviamo due paroline dolci. Fatto una fila dritta di display, ma non è giusto più. ti consiglio Redmi perché sono in policarbonato, una cosa del genere sono. Sono molto resistenti. Io ce l'ho, mi è scappato in terra una volta, non ho fatto nulla. Sono una cannonata. Cioè questa marca, dove la trovi? Questa marca c'è dappertutto, sono i Xiaomi Redmi si chiama, sono aggannonata questi telefoni, si trova il negozio dove vendono i cellulari. Ma esiste questa marca? Chi c'è la Vola, fa la Team, la Wind, chi c'è la 3? Sì, ce l'hanno loro, ce l'hanno. E poi dipende che cosa vuoi. Io ho l'ottoticcio, l'ottoticcio si chiama il mio. Poi quello che ho preso alla mia compagna è il 9, poi c'è la versione A che non è biglio perché fa cagare, cioè no, è più economica, dai, non è che faccia cagare, ma io ho preso il 9, gli ho preso, il mio è l'ottoticcio che cosicchia un po' di più. È una cannonata però, c'ha 4 telecamere, è il secondo produttore al mondo di telefoni, dopo la Apple. Ma io guarda col Samsung, sono anni e mi trovo troppo bene, e come telefono, gli altri no, ho visto un Huawei, non mi piace nulla, no. LG per carità. Il K8, K9, K10 sono buone, ma K10 li ho visti per carità, il mio 4G mi va troppo bene. Prova il Redmi e poi mi torna la risposta. Devo averlo, e poi ti saprò dire qualcosa in più. Xiaomi Redmi si chiama. Tu basta che fai gli aggiornamenti giusti a quel cellulare, li fai tutto giusto, è una cannonata, pompa. E sono allucinanti, hanno dei processori, basta guardarlo. Vai su cosa, lo vedi, su internet, li vedi come sono. Il mio mi trovo benissimo, lo butti, cover, di tutto mi hanno dato. Come prezzo? Allora, quello mio l'ho pagato 179 euro, quello mio l'avevo pagato, adesso costa un po' di meno. Quello di Sara l'ho preso perché mi hanno fatto l'offerta a me perché sono cliente Wind. Costa 169, mi hanno fatto pagare 129, mi hanno fatto un forte sconto. Ma io questo, quando l'ho comprato anni fa, 180, e niente, poi sono uscito ovviamente, sono 6-3 mesi, cambiano il cellulare, cambiano interamente. Ma ho notato l'ultima generazione, controllando, già qualche cosa in più del mio, ma non me ne affrutti nulla. Perché la maggior parte di quello che serve a me, cioè, quindi, hanno più o meno le stesse funzioni. Non cambia nulla. Questo che abbiamo noi, questo che ho io, c'è anche la ricarica rapida, è molto importante. Una batteria allucinante, c'è, che ti dura parecchio. Ma guarda, quando c'era Ocean, io ho comprato quelle cariche batterie che ti puoi caricare il telefono praticamente, banca batteria, quel carro si chiama, l'ho pagato 26 euro, un bello grande, lo carico, me lo porto a lavoro, siccome uso spesso il telefono, ma non vedo arrivare, per esempio, quando lo uso spesso su internet, c'è un settica la batteria. Quando arriva a 20% di batteria, attacco quello lì, manco ti posso dire 4 minuti, neanche, è già carico al massimo, 100%, mi dura tutto il giorno, quindi mi porto quello lì appresso, sono a posto. No, ma questo qua io sono contentissimo, guarda, ce l'ho già parecchio, sono molto molto contento, ho preso il 6, poi sono passato a questo, che è una cannonata, sono contentissimo, la verità, non rimbusso di nulla. Questo si chiama Redimus, com'era? Il mio è l'8T, però ce ne sono vari modelli, ce ne sono. L'8T Not si chiama. Aspetta, mi vado con calma la marca. Redimi si chiama. Redimi? R-E-D-M-I. M-I, a ultimo c'è. Vediamo un po'. Eccolo qua. Brillante come una stella, veloce come una cometa. Il MPP Aura 40, la Sigma Extra, niente, luminoso faro, potrebbe pensare su altre. Ma uno solo l'ho visto, milizionaria poi, credimi signori, un grigio a parole. Non è trovato di questo telefono? Sì, che ci sono. Xiaomi si chiama, vabbè. Xiaomi Redmi 8T. 8T metti, già esce già. Ma poi ce ne sono anche altri. C'è il 10 che è una cosa allucinante. Ce n'è un modello che ha il coso, c'ha. Come si dice? Di fotocamera, una cosa allucinante, guarda che già c'è, alcuni hanno la carica a 30 watt, a 100, dipende cosa vuoi. Ma io qua noto, Redmi Note 8, Redmi Note 9, capito? E dicono ce ne chiamo 7, 5, 6, il massimo è 9. Metti l'8T, metti. 8T non c'è. C'è Redmi Note 8, Redmi Note 9, Redmi 6, Redmi Note 9 Pro, Redmi 9, Redmi 8, Redmi Note 7, 5, 8 Pro, Redmi 7, 9. Sono buoni come coso, come telefoni, però sono molto delicati, ecco. Vabbè, io invece non so se grazie a Dio, non mi posso lamentare. Delicati cosa? No, non mi è mai successo nulla a me. Xiaomi 195 euro Amazon. Sì, ma sono fatti in policarbonato, cioè sono un bel resistente, sono. Ah, questo mai è sceso a terra, non si è fatto nulla. Lei pure dello principale mio che l'ha comprato, l'ha pagato un mese di là, ne ha fatto in terra e si è pagato un quadro. A chi sono di cortano il troppo non andano in vero. Tanto io ho l'S10, l'S10 è costa 700, cioè è costato 700 euro. Ma quale è il Samsung? Samsung, allora, è velocissimo, 1128 giga, 6 giga di RAM, è abbastanza fluido come telefono. Vabbè, adesso ci sono telefoni più superiori a questo, c'è anche l'S20. Non mi stavo parlando bene dell'ultimo Xiaomi che costa un po', un bel po'. È una cannonata questo, Poi ogni tanto mi diverto a ciambare i canari. Quando visto che c'è il cliente rompe i balli, ci sono tutti impostati. Qui io sono sulla televisione che andrò a sto volume. E cosa è successo? Io non le spenderei mai tanti soldi per un telefono. Il massimo posso spendere 200 euro per accedere alle funzioni che ho io, né più né meno. Io sono un J7 Samsung e mi piace troppo. Io non mi ho speso tutti quei soldi. A quello che ho io paga una cannonata, quello che c'ha la mia compagna paga una cannonata. Sono a problemi, è potente come cellulare. Sono contento, la verità, io sono su quella linea lì, sono già 3 anni e non mi posso lamentare, non mi posso, assolutamente no. Prima ne ho provato uno, cazzo, sono stato soddisfattissimo, poi ho provato questo e sono soddisfatto, sono contento, la verità, molto contento. Eia, non c'è attrezza, vai a cuccia, vai! Vai, che so che ce l'ha, non c'è nessuno! Ma tu vuoi il visore di capo, ma va! Niente! C'è, se vuoi il televisore se la prende adesso, Niente! Vai a cuccia, chi c'è? Dea! Chi c'è piccoli? Un televisore da fare in Davide, sì, la signorina si guarda pure un televisore, una scienza, vabbè dai, questi telefoni, io sono ancora alle SSI oggi, pensavo giù, dentro l'armadio, c'è poco a poco il vetro rotto, filato, dai, ma funzionava bene, quello lì è un 64 giga, 6 giga di RAM, un telefono è costato, 930 euro. E anche io ho 4 giga. Ma ripeto, a me mi stava bene. E quello che volevo pure io va anche troppo bene. Mi basta questo. Tanto buono, per la base di me, allora si vedrà. Però sempre Samsung. Come ci ho, 128 più 32, 160 giga di memoria c'ho. Comunque anche un cane mio, quando guarda la televisione, c'è un altro cane che può la barita lì. Ah, lo tu, dai, sì. Poi a me stava, la chiede la paglia, che sta fastidiosa, quando la vedi è andata di uscire e non ne avvini più, vabbè, basta, vabbè, con chi c'hai non c'è nessuno, con chi ce l'hai, vabbè, e puntate anche per un televisore che è sudato, allora poi l'aspetto, cazzo, ma tu non dici ancora da fare la puntura, mamma, riprendi a tu. Ecco qua tu. Ti ha chiamato, sono sceso giù un attimino. Lui il cane va coccolato. Io cane non ne ho. Gianluca. Ma c'è che ancora la marina sicuramente, no? Comunque, la nuova compagnia, guarda, il cane. Dicono anche, meglio un cane amico che un amico cane. Già lo so, già. Già lo so. Il cane non ti tradisce mai, ricordatelo. Ah, perché il cane è bravo, poverino, già. È un poco, allora cacchimmo un poco, dice tipo Pitbull, Rottweiler, che ci non mi piace nemmeno. Ma che su è imprevedibile. Bisogna dargli delle e a bambini non ce lo metterei mai vicino perché lo sai come si comportano, dice nei gabbi, dice. Proprio è sconsigliato già a girare le palle con il padrone, secondo come li prende. Pitbull, se vuole razza, ma i cani normali sono bravi, no? Non rompono le scatole. No, ma guarda, se lo fai da piccolino, lo cresci tu, è diverso. Il Doberman era l'occhio e si girava il padrone. Infatti dice che la scatola cranica era piccola e il cervello molto più grande e poi impazzivano i cani, così dicevano. Io ne conoscevo uno che l'ha sparato col cane. Ha ti ha tornato di duro, nel razzo vai per mollarlo, l'ha sparato. No, non c'è da avvicinarli a bambini piccoli, no, questi gatti dei cani così, no. No, troppi incidenti sono successi. In posti dove non ci sono minorenni, dove non ci sono bambini, finché ci entri tu, cazzo di codegato, o quei bacchini a gatto ci hai bidetti, ma quando ci sono bambini piccoli no, non sono da lasciare neanche a giocare. Io conosco i cani miei, sono piccoli, taglia piccola, già da un anno, ma so, guarda, fanno le feste, chiunque viene, sono ben divertiti. C'è un bassotto e l'altro lì con che cane, ma tu non dopo. Ma quelli sono lupacchiotti, ci sono bravi, cioè se parliamo di cani così, no, non fanno male una mosca, non fanno male. No, cose, cioè, ma se fa vedemmo di cani, cani di una certa fatta, soprattutto che cibi rigorosi, è un altro conto, parliamo di un'altra cosa. Ma se non sbaglio sono le 9:35, così è. Mi pare di 10 a Baito. Sì, giusto. Penso che presto che... Lo so. Ciao a tutti, buonanotte anche a te, a domani, ciao. Ciao. Sta a posto prima di sudare.